Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio, ben ritrovati, iniziamo una nuova settimana insieme. La settimana non inizia sotto i migliori auspici per la borsa, vi do subito qualche cifra. Milano meno 2,83%, Parigi meno 1,76%, Francoforte meno 1,66%, Londra meno 0,80%, euro sotto quota 1,25%. Come sapete bene, oltre ai risultati sportivi delle ultime ore tra Ferrari e Nazionale di Calcio che ci hanno esaltato non poco, ci sono invece altri argomenti che stanno catalizzando l'attenzione di noi tutti e che invece che esaltarci ci tengono con il fiato sospeso, ci preoccupano. Parliamo dei grandi vertici politici che stanno decidendo le sorti dell'Eurozona. Oggi la borsa appare molto preoccupata, la settimana parte male, come vi dicevo non si capisce bene se i mercati non sono soddisfatti del vertice di Roma che si è tenuto venerdì fra i quattro grandi leader Merkel, Monti, Rajoy e Hollande, o se temono le bugie greche, la possibilità che il paese possa anche essere messo nelle condizioni di uscire dall'Eurozona. Sempre più spesso negli ultimi mesi è stata messa in discussione, lo sapete bene perché ne abbiamo parlato tanto, l'esistenza stessa della moneta unica di fronte agli scenari sempre più difficili che dal punto di vista economico e politico i paesi dell'Eurozona si sono trovati e si trovano ad affrontare. Radio 24 da tempo vi racconta la crisi, i suoi impatti fra di noi e la platea dei cittadini e dei risparmiatori. Da oggi iniziamo l'ennesimo percorso. Durerà due settimane per andare alla scoperta dei possibili scenari legati alla crisi dell'euro, affrontando i temi del debito pubblico, del commercio fra i paesi, le posizioni delle diverse nazioni e le possibili evoluzioni di questi legami. L'appuntamento è tutte le sere alle 18.30 con una pillola a partire da stasera. La rubrica si intitola proprio La calda estate dell'euro. Cosa dobbiamo aspettarci intanto questa settimana e nei prossimi giorni? Ce lo chiediamo noi oggi a Salva Danaio, dando il via a questa operazione. Con noi quest'oggi ci saranno Antonello San, amministratore delegato di SCM SIM. Buongiorno, una società di consulenza indipendente. Buongiorno San e bentrovata Salva Danaio. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Saluto e ringrazio anche per essere ritornato con noi Giordano Beani, direttore investimenti di BNP Paribas Investment Partners. Beani, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a lei e agli radioascoltatori, buongiorno. E ben ritrovato anche ad Andrea Ragaini, direttore centrale del private banking di Banca Carige, oltre che ad essere amministratore delegato di Banca Cesare Ponti. Buongiorno e ben ritrovato anche a lei, Ragaini. Buongiorno a tutti voi, grazie. Allora, come sempre, gli ascoltatori hanno l'opportunità di farci delle domande, di confrontarsi con noi sui temi del momento di questi mercati caldissimi. Peraltro non ho ricordato lo spread fra BTP e Bund, il differenziale di rendimento fra titoli italiani e tedeschi sulla scadenza decennale, partito stamattina più o meno tranquillo, 421 punti base, risalito rapidamente e già sopra i 440. E allora, se volete confrontarvi con noi sui temi caldi del momento che riguardano i mercati, come sempre potete farlo all'800240024, potete scriverci al 349-238-6666, potete esporre i vostri commenti anche sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Vi ho già indicato più o meno i motivi di tensione che questa mattina stanno facendo rifioccare le vendite sul mercato azionario. Vediamo un po' i temi del giorno di Piazza Affari. In questo momento, così come da stamattina, non c'è nessun titolo positivo a Milano. I titoli che stanno guadagnando meno, Diasorin meno 0,27, Salvatore Ferragamo meno, che stanno perdendo meno, scusate, Diasorin meno 0,27, Salvatore Ferragamo meno 0,54, Campari meno 0,6 e poi i titoli iniziano a perdere oltre un punto fino ad arrivare ai ribassi di quasi 5 punti del Banco Popolare, Unicredit meno 4,69, A2A meno 4,62, Buzzi Unicem meno 4,34, meno 4 punti per UbiBanca, per Telecom, meno 3 punti e mezzo per Enel, Popolare dell'Emilia Romagna, Mediaset, oltre 3 punti di calo per Mediobanca, Popolare di Milano, Intesa San Paolo, Finmeccanica, qua non finiamo più. Andiamo poi a vedere cosa fa Monte dei Paschi, che oggi formalizza la sua richiesta di Tremonti Bond, ha bisogno di ricapitalizzarsi, tutte le iniziative prese non gli bastano per la cifra che deve mettere sul piatto e per quello che manca appunto farà ricorso di nuovo a questi strumenti. Il titolo sta perdendo circa 3 punti percentuali. Allora, cosa succede? Che cosa è ritornato di nuovo a preoccupare l'animo degli investitori? Faccio un rapido giro di chiacchiera con i nostri ospiti appunto questa mattina per poi, come ripeto, dare anche la parola alle riflessioni e ai commenti degli ascoltatori. Già qualcuno quello che si chiede effettivamente, ma è il caso di investire in ciò che ci protegge di più? L'oro è tornato ad essere il grande cavallo di battaglia e al centro dell'attenzione di molti ascoltatori che cercano a questo punto non tanto di far lievitare i rendimenti del proprio capitale investito, perché non si trova praticamente nessuna asset che riesca a far crescere più di tanto effettivamente i propri capitali, ma si cerca a questo punto di individuare quelle soluzioni capaci di proteggerlo al meglio. Magari a questo tema dedicheremo la seconda parte di Salvadanaio. Io voglio capire che cosa sta succedendo questa mattina. Comincerei con Andrea Ragaini, perché poi deve lasciarci prima degli altri ospiti, così sento subito un suo commento sulle ultime vicende delle ultime ore. Che cosa preoccupa Ragaini stamattina agli investitori? Non credono a quello che potrà succedere al vertice di Bruxelles del fine settimana, o a loro non è piaciuto affatto quello che è successo venerdì a Roma? Ma probabilmente tutte e due le cose, dottoressa. C'è il tema del vertice di Roma, che ha portato sicuramente una grande vicinanza dal punto di vista mediatico, con la conferenza stampa riunita e molto vicina dei leader, però poi nella sostanza quello che è mancato è quello che tutti noi vogliamo sentirci dire, che il passo verso l'unione fiscale è davvero un passo fattibile in tempi ragionevolmente brevi. Ancora una volta abbiamo avuto delle distanze forti per quanto riguarda l'utilizzo del fondo EFSF per l'acquisto di titoli di Stato, che era stato proposto proprio dal Premier Mario Monti. C'è stato un no molto chiaro da parte tedesca, per contro c'è stata un'apertura maggiore sull'unione bancaria, ma anche in questo caso un'unione bancaria che sembra essere davvero un po' più alla portata di mano rispetto all'unione fiscale è ancora lontana da venire. Quindi il mercato in questo momento sta prendendo atto della difficoltà con cui si muovono i passi in sede europea, soprattutto passi politici. Purtroppo abbiamo creato una situazione in cui i tempi della politica sono molto lunghi, i tempi della finanza, li conosciamo tutti, sono estremamente brevi, e di conseguenza conciliare queste due posizioni diventa sempre più difficile. I mercati oggi stanno scontando, a mio avviso, questo. Ecco, Ragaini, sempre per essere molto chiari con i nostri ascoltatori e raccontare loro in termini semplici le dinamiche della finanza, che cosa significherebbe per l'Europa mettere in piedi un'architettura e un'unione fiscale? Che tipo di relazioni nuove avrebbero le nazioni? La relazione primaria è quella di avere una possibilità di emettere debito a livello unificato, quindi tutti i singoli 17 paesi dell'Eurozona potrebbero contare su un emittente unico, un grande organismo sovranazionale europeo. Quindi il grande tema è sempre quello, l'Eurobond? Il tema è sempre quello dell'Eurobond o della ripartizione di risorse tra i vari stati europei. Pensiamo molto rapidamente agli squilibri che si possono generare nel mondo, cioè il grosso squilibrio tra Stati Uniti e Cina. Questo squilibrio si mette a posto nel tempo con una svalutazione di dollaro rispetto alla valuta cinese. Pensiamo a uno squilibrio all'interno degli Stati Uniti d'America, Stato di New York, Stato del Mississippi. Ogni anno New York produce ed esporta molto di più verso lo Stato del Mississippi di quanto faccia il Mississippi. Alla fine dell'anno lo Stato federale prende delle risorse dallo Stato di New York e le dà allo Stato del Mississippi. Ecco, questo non avviene in Europa. Ogni anno la Germania accumula surplus verso l'Europa periferica, guardiamo semplicemente l'Italia, e alla fine dell'anno questo surplus rimane in Germania e il deficit rimane in Italia. Occorre uno Stato federale che in qualche modalità prenda le risorse dagli Stati che accumulano surplus e le dia in qualche modalità agli Stati che accumulano deficit. Questa è l'unione fiscale in pochissime parole. Benissimo. Antonello Sanna, vengo a lei. L'altro grande tema per il quale si aspettavano delle novità formali, perché sapevamo che le banche spagnole avrebbero chiesto all'Europa appunto aiuto per la loro ricapitalizzazione, la richiesta formale come nelle attese è arrivata questa mattina. Intanto vedo che Milano si sta avviando a perdere quasi 3 punti, meno 2,90 in questo momento sul FTSE MIB. La richiesta appunto, dicevo, delle banche spagnole è arrivata, si parla di una cifra che per la verità ancora il governo iberico non ha voluto quantificare, ma siamo intorno ai 62 miliardi. Già il mercato, tanto per trovare ulteriori scuse per continuare a vendere, si spinge a dire che la necessità del sistema bancario spagnolo potrebbe essere molto più alta. L'Europa comunque ha pronti 100 miliardi. È importante che si definisca con chiarezza anche la situazione delle banche spagnole. Sanna, che cosa ci dice su questo versante? Importante, anche se poi il dato preciso è molto difficile da ricostruire. Diciamo che il segnale di una maggiore apertura sulle banche spagnole ha rassicurato in un primo momento, ma poi, come abbiamo visto, i mercati hanno vissuto anche come una possibile sottovalutazione allo stato attuale appunto del governo spagnolo della necessità delle banche. Secondo me il vero tema in questo momento, le informazioni che ci stanno dando i mercati è che esiste una sfiducia complessiva verso un atteggiamento politico dei governi che è assolutamente discorde, difforme. Abbiamo un Monti che in mezzo a un rigore tedesco della Merkel e a una volontà di Hollande invece di attuare politiche keynesiane. Quindi di fronte a questa continua mancanza di visione strategica i mercati reagiscono dicendo non ho un futuro davanti e quindi è più facile scommettere sulla crisi. Disgregazione. Mm-hmm. Assolutamente. Assolutamente. I mercati vanno vissuti come portatori di informazioni. Io la storia della speculazione la vedo come un fenomeno assolutamente naturale del mercato e ci stanno informando, se la vediamo così, che il vertice di sabato non è stato assolutamente sufficiente, che le richieste che arrivano anche dalle banche spagnole non sono ben definite, sono sempre numeri la cui precisione è assolutamente variabile a seconda delle giornate e in questo senso evidentemente è un fenomeno che non è controllato dai singoli governi. Giordano Beani, vengo anche a lei con un altro commento sollecitato da un altro ascoltatore. Fra le varie indicazioni che sono emerse dalle vertici a 4 di venerdì scorso, anche quello di una possibile intesa sulla introduzione di una Tobin tax, la famosa tassa sulle transazioni finanziarie. Un ascoltatore, Leonardo, ci scrive al 349-238-6666 sostenendo che chiaramente se si parla anche dell'introduzione di una misura come questa è difficile che i mercati ne possano essere contenti. Secondo lei il mercato stamattina scende anche su questo? Ma non credo che sia la ragione principale della discesa di oggi, credo che i colleghi che mi hanno preceduto hanno già illustrato direi ampiamente correttamente quali sono le motivazioni della discesa di oggi. Il discorso della tassazione sulle transazioni finanziarie diciamo che per alcuni aspetti può essere pensato un po' come uno specchietto per le allodole, perché la Tobin tax o appunto imposta sulle transazioni finanziarie o viene applicata non solo a livello europeo ma addirittura a livello mondiale, oppure il risultato finale di un'azione come quella non è altro che di trasferire in realtà le transazioni finanziarie da una piazza finanziaria all'altra, quindi anche il mero fatto che a livello europeo il Regno Unito sia assolutamente contrario all'introduzione di una ulteriore imposta sulle transazioni finanziarie, perché ricordiamo che in Inghilterra comunque esiste già lo cosiddetto stamp duty, quindi di fatto esiste già un'imposta sulle transazioni finanziarie, la dice lunga sul fatto che una misura di questo genere introdotta soltanto da alcuni paesi in realtà porterebbe probabilmente ad una riduzione delle transazioni finanziarie in quei paesi a vantaggio di piazze finanziarie che non prevedono questo tipo di imposizione, quindi una misura a mio avviso poco efficace in questo contesto. L'aver messo sul piatto complessivamente 130 miliardi di euro, l'1% del PIL europeo o quantomeno la dichiarata volontà dei paesi che hanno partecipato al meeting di venerdì appunto di mettere in campo risorse per questo ammontare per rilanciare la crescita, lo stesso non è bastato. Avrebbero potuto fare, Beani, qualcosa di più i paesi europei che si sono incontrati a Roma con Monti venerdì? Ma chiaramente diciamo che da commentatori oggettivamente è sempre più facile, no, dare consigli, proposte, soluzioni, poi bisognerebbe essere seduti su quei tavoli perché le difficoltà politiche sono oggettive, quindi è molto, come dire, più semplice parlare che fare. Io credo che comunque il problema dei mercati, cioè la risposta negativa dei mercati non sia tanto legata ad un problema di cifre, ma sia legata appunto alla evidenza, alla presa di coscienza del fatto che questo tipo di crisi comunque non può essere risolta, diciamo, in un'unica soluzione. I motivi della crisi sono motivi che hanno delle radici storiche profonde, pertanto la risoluzione della crisi stessa passerà attraverso un periodo molto lungo, quindi il fatto che i mercati vivano di volta in volta il vertice successivo come l'attesa di un vertice risolutivo e come ricorda molto, diciamo, Samuel Beckett aspettando Godot, credo che non arriveremo mai ad avere una soluzione unica e definitiva, e il che significa che dovremo abituarci ad una forte volatilità sui mercati proprio per il gioco delle aspettative e delusioni che si andranno a creare. Quindi sarà comunque un periodo molto molto difficile per i mercati, soprattutto per i mercati europei andando avanti. Non possiamo farci illusione che la crisi passi velocemente, certo è che questo non significa necessariamente che dobbiamo dare per scontato il fatto che l'euro si debba disgregare. L'euro può rimanere in piedi anche con, diciamo, con la compagine attuale, ma dovrà purtroppo soffrire e passare, diciamo, la crisi attraverso un'azione prolungata e auspicabilmente più convergente rispetto a quella che abbiamo visto fino adesso. Siamo stati dunque di buon auspicio, almeno la nostra intenzione era quella, intitolando la nostra nuova iniziativa La calda estate dell'euro, auspicando appunto che questa crisi che si è esasperata un po' nelle ultime settimane durasse solamente questa parentesi estiva. Probabilmente non sarà così, vedremo quali altri parentesi aprirà questa crisi appunto finanziaria. Milano perde il 3%, un avvio di settimana che a definirlo brusco è un eufemismo. Grande preoccupazione per quello che potrebbe essere l'esito dell'atteso summit europeo di fine settimana. Delusione per quanto invece partorito dal vertice a 4 di venerdì scorso, ospitato proprio in casa nostra, oggi tra l'altro qui a Roma. A Salvadanaio oggi trasmettiamo la nostra trasmissione appunto dalla capitale, che ha ospitato i leader europei più importanti, dalle cui decisioni appunto sicuramente dipendono le sorti dell'Europa, ma a quanto pare le decisioni partorite non sono state molto apprezzate dal mercato, almeno a giudicare dalla reazione di questa mattina. C'è anche l'altra vicenda che ha un po' del grottesco, se volete, ma che in realtà si aggiunge tra gli altri tasselli anche alle notizie di questa mattina. Negli ultimi due anni, hanno riportato i giornali quest'oggi, la Grecia avrebbe assunto, invece di licenziare, il governo di Atene, che è sull'orlo della bancarotta proprio anche per le dissennate politiche di assunzione nel settore pubblico in tempi di allegra finanza e apparente benessere, avrebbe violato l'accordo con l'Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale, assumendo circa 70.000 funzionari fra il 2010 e il 2011 invece che tagliare nel settore pubblico. Antonello Sanna tra i nostri ospiti di questa mattina. Tra l'altro il nuovo premier Samaras non riuscirà probabilmente ad andare a Bruxelles nei prossimi giorni perché ha avuto questo distacco della retina. Sembra veramente tutto, come dire, un po' grottesco se non fosse vero quello che sta capitando, ma in effetti la Grecia non vorrei che fosse un po' tutta una scusa per non andare a raccontare a Bruxelles anche di questa scoperta che è stata fatta, che forse mette un po' in difficoltà questo governo, che ha chiesto di rispettare gli impegni internazionali con altri due anni di tempo in più rispetto a quelli che gli erano stati concessi. Anche questo stamattina infastidisce gli operatori, secondo lei? Antonello Sanna, mi sente? Sì, sì, la sento. Dicevo, secondo me solo in parte, perché tutto sommato la Grecia è rilevante, ma non è poi il vero perno di tutto. Oggi tutta la vicenda euro vede come perno l'Italia, no? Il timore del contagio sull'Italia, che è un elemento pesante dell'Unione Europea. Pesa il debito pubblico, il contributo al PIL è importante e il timore di contagio è quello essenziale, però ci fa capire anche la posizione della Germania, la rigidità assunta verso i paesi che vengono del sud è proprio il timore di una violazione continua di queste norme che sono dettate dal Fiscal Compact ai tempi del Trattato di Maastricht, per cui questa rigidità della Merkel che richiama continuamente la necessità di controlli è proprio di due approcci completamente diversi, loro molto rigido, molto anglosassone di rispetto di una serie di regole, il nostro dell'Europa del Sud invece un po' più, diciamo così, lasco, un po' più allegro. A conferma di questo atteggiamento arrivano questi segnali che secondo me più che incidere sulla situazione odierna confermano questa rigidità tedesca nei confronti delle regole e della violazione delle stesse da parte dei paesi del sud. C'è un'altra curiosità che si stanno ponendo gli ascoltatori, e per la verità hanno anche ragione, perché quando si verificano giornate così pesanti dal punto di vista appunto del mercato, le borse scendono tanto, magari gli spread si allargano, segno che evidentemente i titoli di Stato, in questo caso soprattutto i nostri, vengono venduti a mani basse, appunto noi diciamo sono i mercati che penalizzano le borse, i mercati che penalizzano le obbligazioni. Andrea Ragaini, alcuni ascoltatori si chiedono, ma insomma ci spiegate da chi è fatto questo mercato? Chi è che si sta liberando così sensibilmente delle azioni dei mercati europei o delle obbligazioni appunto dei paesi europei? A chi dobbiamo attribuire, per esempio, così è chiaro che lei non può farci nomi e cognomi, ma tanto per spiegare un po' quali sono le dinamiche che sono dietro a questi movimenti così vistosi, sono i grandi fondi di investimento americani, sono i cinesi, sono quelli appunto delle altre economie. Chi ci può essere stamattina, per esempio, dietro a questo fuggi-fuggi? Allora, iniziamo con le esclusioni. I cinesi no, di sicuro, perché purtroppo i cinesi non detengono attività reali italiane, no? Anzi, ne detengono pochissime, un pochettino di azioni, zero obbligazioni governative. Il mercato è fatto da tanti operatori, è fatto dai privati con i loro risparmi, è fatto dai privati che con i loro risparmi comprano quote di fondi comuni, quindi è fatto dai fondi comuni di investimento, dai grandi operatori che invece sono i fondi e i fondi sovrani degli stati prevalentemente emergenti, e poi i grandi operatori internazionali, i grandi operatori americani, inglesi e qualcuno anche di giapponese. Quindi è fatto da una pluralità di soggetti. Abbiamo sempre detto che la finanza si è impadronita un po' troppo dell'economia reale, doveva essere solamente il giunto cardanico di collegamento tra la base, tra la realtà economica produttiva e il risparmio delle famiglie. Abbiamo costruito un po' tanti piani di carta sopra questo piano di economia reale, e quindi un po' di flussi sono anche amplificati dai movimenti degli strumenti derivati, che amplificano all'insù e all'ingiù i movimenti dei mercati. In effetti, è stato detto prima, i mercati sono come un sensore informativo, quindi ci danno delle notizie. Abbiamo sempre pensato che i mercati avessero ragione. Io penso che tutti noi in questi ultimi mesi abbiamo pensato che talvolta i mercati possano anche sbagliare. Io penso che stiano sbagliando tanto sull'Italia, ma tant'è, i volumi che vediamo sui mercati in questi giorni sono abbastanza importanti, quindi la valutazione che i mercati ci stanno dando è che l'Italia meriti quei 4,40 punti di differenza con il Bund tedesco. Io ritengo che i mercati talvolta sbaglino, sono fatti da operatori che non hanno come risultato finale se non quello della speculazione, che non è una cosa brutta, ma certamente è un guadagnare sulla base delle perdite altrui, che non è mai una cosa bella, e quindi io penso che nel tempo alcune regole maggiori sul controllo degli strumenti finanziari, sul controllo della finanza derivata ci dovranno essere. Le chiedo solamente un ultimo commento, Ragaini, poi la lasciamo perché so che deve andare. Lo scorso anno l'ampliamento del differenziale di rendimento fra titoli italiani e tedeschi ci colse davvero di sorpresa, dando il via all'inasprimento della crisi finanziaria con la quale poi ci siamo confrontati per tutto l'autunno fino ai momenti difficilissimi fra novembre e dicembre, e purtroppo ancora non c'è, sembra, fine a questo tunnel. L'estate che è iniziata proprio da pochissimi giorni sarà all'insegna lo stesso di questi movimenti, di questi eccessi come nelle ultime settimane, come lo scorso inverno, oppure avremo una costanza pur nelle difficoltà? Io temo che il tema di fondo sia proprio quello dell'unitarietà europea. Oggi, come ha detto il governatore Visco nelle sue considerazioni finali, l'Europa vista nel suo complesso, cioè somma dei 17 paesi, è un paese assolutamente in equilibrio, che sta molto meglio degli Stati Uniti d'America. Purtroppo i mercati non vedono un'Europa, vedono 17 stati che tra l'altro molto spesso litigano tra di loro. Quindi purtroppo finché non ci sarà una forte presa di consapevolezza sulla necessità di maggiore integrazione europea, temo che nessuna dichiarazione o nessuno stanziamento anche imponente come 130 miliardi di euro che sono stati annunciati, l'1% del PIL, possa fare tanto. Grazie ad Andrea Ragaini, buona giornata, ci risentiamo più avanti. Grazie molte. Buona giornata a tutti, arrivederci. Noi continuiamo con Giordano Beani di BNP Paribas Investment Partners e Antonello Sanna di SCM SIM, cominciando anche a sentire le domande degli ascoltatori. Sentiamo un po' quali sono i temi che attraggono di più, preoccupano di più in questo momento in cui non facciamo altro che parlare di borse in discesa e spread in risalita. Allora, Alberto dalla provincia di Lecce, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo fare due domande, anche se non sono bene auguranti. Io ascolto molto le vostre trasmissioni, però non ho mai sentito a quanto sarebbe la perdita d'acquisto per esempio io ho 100.000 euro, con la caduta dell'euro quanto perderebbe? Quanto si svaluterebbe d'acquisto? Questo asset, esatto. Diciamo. E poi ho ancora una, e meglio rimanere liquidi o avere titoli azionari, obbligazionari, sempre in euro, in questo caso di caduta? Grazie. Alberto, grazie molto. Allora, devo cominciare a farvi farvi fare il vostro lavoro, Beani e San, quindi lavoro di consulenza, naturalmente di gestione del risparmio, delle risorse che altri soggetti hanno e che vi chiedono appunto un orientamento su come muoversi in queste acque agitate. Però, Giordano, Beani, la domanda di Alberto è molto chiara. Effettivamente facciamo molti esercizi di quantificazione di quanto si svaluterebbero gli asset italiani di fronte ad una prospettiva di ritorno alla lira. Circola con grande insistenza, io l'ho vista, delle simulazioni su un 30%, no? Però non so se potrebbe essere corretto, se questo può valere per esempio per un patrimonio immobiliare così come per un patrimonio di risparmio di altro tipo, ma è una percentuale corretta? Beani. Adesso non voglio nascondermi di fronte a una domanda così diretta, però il vero problema è che a quella domanda non c'è una risposta. E mi spiego velocemente, poi cerchiamo comunque di dare almeno un'idea di ordine di grandezza, se si può abbozzare. Il problema che ci manca è il dato che ci manca è in che modo eventualmente un ritorno, diciamo, alla vecchia nuova lira si concretizza, no? Nel caso in cui l'euro si dovesse disgregare, vale a dire esce soltanto un paese dall'euro, ne escono due, ne escono tre, escono tutti. E in relazione, diciamo, alle modalità in cui questa eventualità dovesse materializzarsi, possiamo fare dei calcoli, perché il discorso è, se noi assumiamo che l'Italia, solo l'Italia, esca dall'euro, uno può pensare che una svalutazione magari del 20-30% rispetto all'euro che rimane potrebbe essere sufficiente, probabilmente si potrebbe anche arrivare a, diciamo, chiamiamolo, riorganizzare il debito pubblico, non voglio parlare di ristrutturazione, però a quel punto... Guardi, ne parlano apertamente gli ascoltatori, proprio poco fa è arrivato un SMS di uno che ci chiede quanto valutano gli ospiti di Salvadanaio la possibile ristrutturazione del debito italiano. Quindi, esatto. Come vede... Quindi c'è anche un tema di questo tipo, e se ipotizzassimo a bocce ferme l'uscita della sola Italia, si potrebbero fare appunto conti di questo tipo. Ma in realtà, quando dico che non c'è una risposta a quella domanda, cioè dire 100.000 euro oggi che cosa diventeranno in termini di potere d'acquisto qualora l'euro si disgregasse, in realtà non possiamo dirlo. Sicuramente varrebbero decisamente meno rispetto ad adesso, questo è ovvio, e poi soprattutto bisognerebbe vedere poi l'evoluzione, diciamo, nel futuro, nel senso che quando uno comincia un processo di svalutazione, come siamo stati abituati noi italiani, poi le cose vanno avanti nel tempo. Però l'errore che bisogna evitare, a mio avviso, e che anche, diciamo, alcuni commentatori di rilievo o politici dovrebbero evitare, è quello di dire: siccome noi siamo stati abituati ad avere la lira, siamo stati abituati ad avere svalutazioni progressive, non sarebbe un problema quello di tornare alla lira. Questo, a mio avviso, è una grossa, diciamo, assunzione fondata su delle basi sbagliate, perché il problema è che da più di dieci anni a questa parte abbiamo l'euro, quindi non possiamo pensare di azzerare la storia dell'euro e dire va bene, torniamo indietro come se nulla fosse successo e siamo tranquilli. Siamo di fronte a degli scenari che sono imponderabili anche da parte delle stesse autorità monetarie e politiche. Certo. Centrali. E oltre, quindi, volevo solo... Quindi il fatto che l'euro comunque debba essere salvato a quasi tutti i costi, credo che sia un'affermazione sulla quale, diciamo, i politici europei, con varie sfumature, sono convinti. Dai tedeschi. Sfumature molto accentuate, no? Peraltro, adesso a parte poi la svalutazione degli asset che ognuno ha in portafogli, il proprio risparmio, pensate anche a quale tipo di disordine sociale complessivo dovremmo essere costretti a sopportare di fronte ad un'eventualità di questo tipo. Noi speriamo sempre appunto di scongiurarla, però è anche corretto rispondere alle domande degli ascoltatori che vogliono appunto sapere che cosa potrebbe succedere. Sentiamo Roberto da Milano, buongiorno. Buongiorno, Roberto, eccoci. Mi sente? La sento adesso, sì. Io sono abbastanza esposto sul mercato dollaro e anche per questo sono un ottimista sul fatto che l'euro andrà avanti. Però volevo chiedere, come ha anticipato lei, quali sono gli orizzonti del cambio euro-dollaro, perché le regole, la teoria direbbe che per aumentare le esportazioni dovremmo avere un euro un pochino più debole, ma certo. Qui non se ne vede la fine. Infatti la moneta regge molto bene rispetto agli scossoni politici che subisce, rispetto per esempio alle azioni e alle obbligazioni. Roberto, su questa ragione abbiamo detto anche molte volte, poi sentiamo cosa ne pensano gli ospiti. Questa era la sua domanda? Sì, grazie. Grazie molto. Antonello Sanna, allora qual è la sua visione sul rapporto di cambio per eccellenza, almeno in questo momento, dal nostro punto di vista? Perché è vero quello che comunque dicevo, che tutto sommato rispetto alle pressioni politiche che lo potrebbero far andare in direzione totalmente contraria, l'euro mostra una tenuta abbastanza vigorosa verso il biglietto verde. Sì, in ogni caso dall'inizio dell'anno è caduto, dall'inizio della crisi l'euro rispetto al dollaro si è apprezzato ed è probabile che lo faccia ancora, sempre all'interno però di una forbice abbastanza controllata, perché altrimenti diventa difficile per gli Stati Uniti esportare. E teniamo presente che oggi i paesi che hanno le economie più importanti sono paesi mercantili, cioè paesi che esportano molto, a partire dalla Cina, dalla Germania, che se guardate la sua ripresa è tutta fatta di esportazioni, quindi all'America non conviene avere un dollaro troppo forte. È evidente che però una parte di questa crisi si versa anche sul cambio, perché se ricordate l'anno scorso eravamo intorno all'1,40, oggi siamo intorno a 1,25, è probabile che scenda ancora un pochino la forza dell'euro, però diciamo che è una valuta abbastanza stabile, ormai il rapporto di cambio entro certi range è fisiologico. Quindi insomma, rispondendo alla domanda dell'ascoltatore che chiedeva in un'ottica temporale, adesso mi sembra, forse non l'ha detto, ma era nelle anticipazioni che avevo sul monitor, di 6 mesi, possiamo continuare ancora ad individuare un rapporto che mantenga l'euro ad un livello superiore ad 1,20? Sanna. Potrebbe scendere 1,15, voglio dire, però non sono delle variazioni percentualmente così importanti da dover spingere a rinunciare a investire in una moneta che oggi comunque è forte rispetto all'euro, quindi io direi che non ne terrei conto, guarderei più sulle prospettive dello strumento sottostante, in quanto le variazioni percentuali non sono tali da preoccupare. Certamente se dovessi pensare a un investimento in questo momento aspetterei un attimo per vedere se la crisi dell'euro peggiora il rapporto di cambio. Quindi bocce ferme, insomma, l'orientamento di Antonello Sanna sugli asset espressi in euro. Ernesto da Mantova, rapidissimo, buongiorno, così riusciamo a rispondere. Buongiorno. Io volevo sapere, vale la pena ancora investire sul mercato azionario? Io ho tanti BTP, ho investito nel mercato obbligazionario, ecco, sia bancario che dello Stato. Sarei tentato, perché io ho sempre fatto un 50% azionario e adesso non so cosa fare, ecco, sui miei risparmi. Ernesto, come tanti colleghi che ascoltano questa trasmissione e tante altre, effettivamente si naviga un po' in un momento di grande incertezza. L'importante è mantenersi sempre vigili su quello che sta accadendo intorno a noi. Giordano Beani, il nostro ascoltatore, dice: ma insomma, io sono una persona abbastanza prudente, nel senso che comunque fino a qualche tempo fa chi sceglieva l'obbligazione lo faceva in un'ottica di conservazione, di prudenza, con la convinzione appunto che quantomeno avesse il capitale certo restituito a scadenza. Oggi questa regola non è più valida, nel senso che anche l'obbligazione governativa non è più priva di rischio. Questa è una lezione grandissima che abbiamo appreso da questa crisi. Lei, per una figura prudente, come immagino sia quella di Ernesto, che tipo di consiglio dà su come collocare al meglio il proprio risparmio, visto che lui privilegia lo strumento obbligazionario? Ma sicuramente in questa fase come non mai la parola, diciamo, d'ordine è il principio della diversificazione degli investimenti, proprio per quello che ricordava lei, cioè il fatto che ci siamo resi conto che di investimenti privi di rischio non esistono e si va di bene, non esistono neanche al di fuori dell'Italia, cioè l'investire in bund non è che ci pone al riparo da rischi. Corriamo anche dei rischi investendo in bond, così come sui treasury americani. E allora, in questo momento in cui anche gli esperti, diciamo, più importanti, oppure persone che come me da tanti anni fanno questo mestiere di gestire i risparmi dei clienti, direi che proprio solo con il buon senso questa cosa deve portare a diversificare i propri investimenti in varie aree, sia geografiche sia di tipo di strumentazione. Quindi per il nostro radioascoltatore, intanto diceva che era abituato ad avere un 50% di azionario, ecco, direi che questo sicuramente è già un profilo di rischio forse troppo esagerato in questa fase, no? Quindi manterrei, non conosco appunto la sua posizione attuale, però parlando un po' in generale, attualmente non avrei per un profilo prudente molto più del 10-15% in azionario, e il resto, diciamo, per un 30% una diversificazione in valute estere, a mio avviso, diciamo, sull'area anglosassone, cioè dollaro americano, dollaro australiano, canadese, magari sterline, per un 30% del portafoglio, che andrebbe comunque mantenuto sempre a prescindere dalla fase di crisi dell'euro. E poi per quanto riguarda la componente obbligazionaria, comunque nelle fasi di stress maggiore come quella attuale o come quella del novembre scorso, acquistare dei titoli dello Stato italiano con scadenze brevi sui 2 anni ci consente di aumentare il rendimento del portafoglio con un rischio relativamente contenuto, no, di diciamo default a breve. Quindi quando vediamo i rendimenti sulle scadenze 2 anni avvicinarsi al 5%, a novembre addirittura siamo andati sopra l'8, a mio avviso qui sono livelli interessanti, perché come dicevo prima non è che arriveremo alla disgregazione dell'euro in 4,48. E per finire, quindi lì c'è l'enzo, ma se ci dovessimo arrivare, quantomeno la scadenza biennale potrebbe essere onorata. Beani, io purtroppo non riesco a farle intervenire oltre perché devo andare alla mia pillola, però insomma le sue idee le abbiamo capite, soprattutto per chi punta al mercato obbligazionario della sua asset privilegiata. Adesso abbiamo la nostra pillola IMSS dedicata alla riforma delle pensioni. Oggi parliamo della gestione separata per i lavoratori parasubordinati. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con IMSS. Chi è tenuto a iscriversi alla gestione separata per i parasubordinati dell'IMSS? La gestione separata IMSS è diventata operativa nel 1996 e garantisce copertura previdenziale per tutte quelle attività lavorative autonome, di consulenza, atipiche o parasubordinate per le quali non è previsto altro versamento contributivo obbligatorio. L'obbligo di iscrizione e contribuzione è stato via via esteso nel corso degli anni. Le principali figure che vi rientrano sono i collaboratori a progetto o co-co-co, i componenti retribuiti di comitati e commissioni, membri di collegi sindacali o di revisori dei conti, i professionisti senza cassa di previdenza, i venditori porta a porta, i lavoratori autonomi occasionali. E Salva Danaio termina qui, grazie ad Antonello Sanna e Giordano Beani per essere stati con noi. Vi ricordo stasera alle 18:30 la calda estate dell'euro, noi ci sentiamo domani, a tutti buona giornata.